ma non è che riesco a nasconderlo. Comunque, con fierezza che vi presento Antonio Rigo Righetti. Si nasconde visivamente, ma si fa molto sentire. Alla batteria, Rabi Sanchez Fellati. Alla chitarra e al cappello abbiamo la gioia di avere Capitan Fede Pacimollini.